quando muoio io non voglio preti, non voglio preti e frati, né paternosti, non voglio preti e frati, né paternosti, ma voglio la bandiera dei socialisti. E la rigilla rigira, la rigira la sempre arditi, evviva i socialisti, abbasso i gesuiti. E la rigilla rigira, la rigira la sempre arditi, evviva i socialisti, abbasso i gesuiti. Hanno arrestato tutti i socialisti, l'arresto fu ordinato o dai ministri, l'arresto fu ordinato o dai ministri, e questi sono i veri, i camorristi. E la rigira, e mai la sbaglia, evviva i socialisti, abbasso la sbirraglia. E la rigira, e mai la sbaglia, evviva i socialisti, abbasso la sbirraglia. La Francia ha già scacciato i preti e i frati, le monache e i conventi ed i prelati, le monache e i conventi ed i prelati, perché eran tutte spie e in ciò pagati. E la rigira, e la ferindora, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. E la rigira e la ferindora, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. Ma se Giordano Bruno fosse campato, non esisterebbe più neanche il papato, non esisterebbe più neanche il papato, e il socialismo avrebbe già trionfato. E la rigira la fa 31, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E la rigira la fa 31, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E quando muoio io non voglio preti, non voglio preti e frati, né paternosti, ma quattro bimbe belle alla mia barella, ci voglio il socialista e la sua bella. E la rigira, la rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. E la rigira, la rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. E la rigira, la rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella.